already know the answer. You are a disgrace. 也门的野中友好协会主席加迈尔。 Now to have psychologists and psychiatrists. 据说加迈尔先生在中国留学多年。 Jefferson Ming e l'arte del sorpasso con Emiliano Enrico. Call on your angels. Come down to the city. Crowd around the big tree. All you strangers who know me.Bring your compassion, your understanding. Lord, how we need it on this New York City Christmas. Ormai il Natale incombe, ieri era l'8 dicembre, quindi chi è più attento con i tempi, con le date e anche con le tradizioni sa bene che, almeno qui in Italia, il giorno dell'Immacolata si fa l'albero di Natale e si fa soprattutto il presepe. Luci natalizie, alberi di Natale giganteschi, corsa allo shopping, credo siano già in voga a New York. E bisogna dire che Natale forse è il periodo dell'anno nel quale la grande mela offre il meglio di sé. Il passaggio da Roma a New York non è naturalmente casuale, perché per una breve ma intensa trasferta per Jefferson Ming e forse anche per se stesso c'è in collegamento in diretta con noi Stefano Pistolini. Buongiorno Stefano. Buongiorno, buongiorno a tutti, eccoci qua a New York, no? New York, ma sono venuto a vedere, approfittando dei ponti, insomma, anche delle vacanze, del ritmo del lavoro che si è un po' allentato grazie a questi ponti un po' più lunghi. Sono venuto a vedere l'aria che tira a New York, poi insomma, dopo aver sentito parlare tanto di crisi americana, volevo vedere un po' con i miei occhi la realtà di questi strani giorni della transizione, no? Che dividono le emozioni elettorali dall'avvento, insomma, dell'uomo che dovrebbe poi spazzarla via, almeno così si pensa o si sosteneva la crisi in questione. E sono venuto a vedere un po' che aria tira. Ecco, diciamo. Quindi insomma la tua è una trasferta di studio, insomma non sei immerso nonostante le ore mattutine come ti immaginavo già nelle compere natalizie. No, quelle ci sono, beh, perché è inevitabile, perché poi insomma si arriva a New York e il termometro dei desideri aumenta in modo stellare, anche perché tutto sembra più bello, io non so perché, sapranno come si fa, sapranno come si vende, però di fatto poco a poco io ho una curiosità su questa situazione della crisi americana, l'ho cominciata a covare, insomma, anche per capire poi quali fossero i margini, quali fossero anche un po' le rappresentazioni di questa crisi, no? Quindi insomma la crisi, insomma, è nell'aria. Guarda, sono 3 giorni che sono qua e ti posso dire questo, che la crisi è ovunque, è nell'aria, è nei media, è sui giornali, è nelle chiacchiere, è nelle discussioni, parli con gli amici italiani che sono qua, che poi per deformazione professionale magari sono giornalisti, o parli invece con gli americani che conosci o che sono nuove conoscenze e insomma giusto il tempo dei convenevoli, e poi si attacca a parlare della crisi e si fa la faccia di circostanza, tutti fanno la faccia di circostanza. Di fatto una premessa va fatta anche per provare a descrivere a chi ci ascolta che cosa succede qua. È una crisi americana, è una crisi all'americana, è una crisi da ventunesimo secolo o nell'impero occidentale, insomma, del benessere e della ricchezza. In sostanza, il primo approccio sembra quello di una parola che credo in questi giorni useremo spesso, che è una specie di moralizzazione, di ridimensionamento, soprattutto di ridimensionamento, di riduzione di quei consumi spropositati che soprattutto, insomma, negli ultimi anni, appena prima di entrare nella crisi, erano diventati proprio una costante, poi forse anche di una certa attitudine un po' lassista, no? dell'America del ventunesimo secolo, e a cui erano abituati qua. Adesso consumano di meno e si vede, e man mano cercherò di raccontarvi anche come si vede, come si coglie proprio ovunque e comunque. Ecco Stefano, possiamo fare degli esempi su che cosa consumano di meno gli americani, in che cosa sono più morigerati rispetto a qualche anno fa? Io ti faccio un esempio un esempio subito fulminante che mi ha colpito, perché insomma io da queste parti sono tanti anni che ci vengo, non l'avevo mai visto. Di solito, se tu, tanto più in una metropoli come New York, come Washington, come Los Angeles, se tu vai a comprare qualche cosa o vai a pagare qualche cosa o vai a pagare la colazione al diner che hai fatto o fai un acquisto qualsiasi, in America venivi eventualmente riconosciuto come italiano se a un certo punto dalla saccoccia tiravi fuori il rosolino dei soldi che avevi prudentemente cambiato alla banca prima di partire, perché noi siamo italiani e queste abitudini non le perdiamo, e venivi guardato insomma con una certa commiserazione, soprattutto magari dalla signora ben vestita o dal businessman che stava in fila dietro di te, tiravi fuori i tuoi soldi, li contavi, facevi questa operazione un po' triste e pagavi il tuo conto, e insomma eri qualcosa tra il mafioso e lo straniero in una terra straniera, non c'è niente da fare. L'americano aveva la sua carta di credito, la flippava, come dicevano qua, davanti, anzi neanche, perché ormai non si dà più la carta di credito, sei tu stesso a pagare in America strisciando la carta di credito in una macchinetta che è sempre davanti alla cassa, quindi tu paghi, firmi sulla plastichina apposita e te ne vai. Beh, questo adesso è, non dico finito perché è un'esagerazione, ma è un fenomeno estremamente ridimensionato. Anche gli americani adesso, quando fanno la loro colazione magari con la famigliola e devono pagare un conto di $30-40, si alzano, tirano fuori il famoso rotolino dalla saccoccia e pagano con i soldi contati. Perché? Perché le carte di credito non fanno più credito, le famiglie hanno meno credito, le famiglie hanno un'arrabbiatura terribile di fondo nei confronti di questi istituti che ritengono in un certo senso li abbiano un po' ingannati, li abbiano comunque indotti a vivere una vita che poi non in questo momento non sta funzionando, e sono tornati alla vecchia carta moneta. Pensa un po'. Comunque Stefano, questo primo passo, beh, questo meno abuso, diciamo così, della carta di credito può essere una prima operazione per uscire dalla crisi, perché forse anche in questo uso sfrenato delle carte di credito si annidava la crisi che poi è esplosa negli ultimi mesi. Ma questa è un po' la moralizzazione di cui vi parlavo. In realtà la sostanza è come se gli americani, mi sembra di percepire insomma in queste prime osservazioni, sentissero, ma avessero anche un po' voglia di espiare, usiamo questa parola, di espiare un consumo, un genere di vita, un genere naturalmente di consumi che probabilmente aveva preso a tutti un po' la mano, naturalmente in alto, su verso i vertici. Prendere la mano vuol dire farsi il jet privato a spese della società, anzi a spese dei contribuenti, e usarlo indiscriminatamente. Più in basso magari voleva dire semplicemente spendere più soldi di quelli che si guadagnano, che non è una buona abitudine, sviluppando un debito permanente con gli istituti di credito che poi non ti fanno più credito e trasformano la tua vita in un piccolo inferno. Insomma, ecco, questo è molto diffuso, vedi la gente che ragiona sui prezzi, la televisione è invasa di programmi di servizio, come li chiameremo noi, no? Tutti fanno molto la faccia di circostanza, tutti sono molto compresi, e poi c'è il grande mostro al centro di tutta questa faccenda, che è l'industria automobilistica, attorno alla quale si accaniscono discorsi, dibattiti, insomma è di queste ore ormai imminente l'ufficializzazione, il varo di questo bailout, di questo salvataggio della ipotesi di salvataggio dell'industria automobilistica ad opera del governo. La parola che risuona fortissima e che è in prima pagina sul New York Times è nazionalizzazione punto esclamativo, cioè voglio dire, parlare di nazionalizzazione fa effetto, no? Pensando anche alla parziale, particolare statalizzazione di veri colossi, insomma, l'impresa privata come Ford, Chrysler, General Motors. Insomma, magari, no? Stefano, tra poco torniamo sulle auto, perché poi nella seconda parte abbiamo una bella metaforicamente trasferirci a Detroit. Ci sono delle messe legate alle automobili molto particolari. Se ne è discusso e se ne è letto anche sui giornali italiani, ma tornando a questo clima di crisi, anzi restando su questa questione della crisi, dal tuo punto di vista, in ambito proprio psicologico, l'americano medio ha più paura, è più rassegnato, o c'è anche magari una speranza in questo nuovo presidente, in Obama, che seppure ancora in una fase di transizione è molto attivo sul campo? Ma io credo che in un certo senso Obama stia facendo bene una cosa, perché ricordiamoci che Obama ancora non ha nessuna operatività, ma stia facendo bene una cosa, stia comunicando bene alla nazione la situazione seria e di emergenza nella quale la nazione si trova, affiancando questo discorso con la capacità di contenere il dato, di contenerne il dato emotivo, ovvero evitando che il panico si diffonda e soprattutto riuscendo a rappresentare, a descrivere questa ipotesi di sforzo complessivo del tutti insieme, che però non è più la sua teoria retorica delle sue prime uscite, ma qui invece è un tutti insieme che ha proprio una modalità esecutiva, perché tutti insieme si devono fare certe cose che riguardano il livello dei consumi, i livelli fiscali, insomma è come se ormai, grazie anche allo sforzo prodotto da Obama e dalla sua amministrazione, il problema grosso fosse esposto, fosse sul tavolo, e in questo c'è anche una forma di sollievo, direi, collettivo, per quello ormai se ne parla, no? La malattia è nota, come dire, non è più la sensazione del mistero, il segreto di un grande guaio che però va tenuto nascosto dentro l'armadio, insomma ormai è esposta, è condivisa e mi sembra, se ne parla, come ti dicevo, ovunque, mi sembra che questo stia poco a poco dando una sensazione di sollievo. E sai, gli americani quando partono poi con questi slanci collettivi, insomma, hanno prodotto spesso e volentieri il meglio di loro. Stefano, abbiamo ancora un minuto prima del disco e lo vorrei sfruttare per una cosa molto divertente, perché so che al di là della tua analisi sulla crisi, al di là delle spese natalizie, ti sei concesso una bella distrazione di lusso, nel senso che sei fortunato che sei a New York e puoi guardarti dal vivo l'NBA. Insomma, ci vuoi raccontare l'avventura con i Knicks? L'anno scorso portasti male, diciamo così, perché la squadra di New York perse alle tue esibizioni. Invece questa volta... Tutte sconfitte. Sì, questa volta andava bene, no? Sono andato domenica al Madison Square Garden, ho visto i Knicks con Detroit, è una squadra di lignaggio superiore, anche assolutamente con un organico assolutamente superiore. I Knicks sono una squadra incredibile, nel senso che quei pochi talenti che avevano li hanno o cacciati via o licenziati, erano addirittura in 10 in panchina invece di 12 e hanno giocato in tutto in 7 giocatori assolutamente marginali, non ci sono star, non c'è niente. Qui si aspetta LeBron James nel luglio 2010, ormai come la data fatidica, però c'è un grande motivatore che noi conosciamo benissimo, che è Mike D'Antoni, che fa fare alla sua squadra questo gioco delirante che si chiama 7 secondi e via, ovvero entro 7 secondi questi tirano, il pubblico li ama perché capisce nel disastro anche qui che c'è una piccola gemma. È stato un pomeriggio divertentissimo, coronato dalla più inattesa e inspiegabile vittoria dei New York Knickerbockers. Stefano, naturalmente la parola NBA, si sono subito accesi i nostri ascoltatori, sono già arrivati i primi SMS, però un'ultima battuta proprio telegrafica. Gallinari in panchina. Gallinari, esatto, volevo panchina, chiederti di Danilo Gallinari, insomma. Danilo Gallinari in panchina con uno splendido completino grigio scuro, molto elegante, molto pettinato, sta lì dietro al faccino, insomma, di circostanza di uno che si è un po' rotto le scatole di fare da contorno alla cosa. Per gli americani è un oggetto misterioso, insomma, non capiscono perché D'Antoni abbia avuto questa balzana idea di prendere questo ragazzone italiano, non l'hanno mai visto giocare, non sanno chi è. Però è tutto talmente assurdo in questa squadra che se un giorno arrivasse Gallinari non troverebbe ambiente migliore, perché la squadra è di piccolo calibro, lui potrebbe diventarne la star istantanea in un certo senso. Allora speriamo che Gallinari presto dagli abiti eleganti passi a quelli proprio da basket, pantaloncini e calzettoni. Noi ringraziamo per ora Stefano, noi ci risentiamo naturalmente dopo la borsa, tra una quindicina di minuti circa parleremo, come già annunciato prima, di Detroit e della crisi dell'auto. We'll be right back. Ritroveremo Stefano Pistolini a New York, anche se parleremo soprattutto di Detroit e della crisi dell'auto. Adesso andiamo un po' a vedere che cosa succede soprattutto in Cina. Prima pagina. Notizie sul fronte cinese, un po' per bilanciare questa puntata di Jefferson Ming, oggi molto orientata inevitabilmente sugli Stati Uniti e su New York. Dunque, rimane ancora molto teso il rapporto tra Francia e Cina dopo l'incontro di sabato tra il presidente francese Nicolas Sarkozy e il Dalai Lama. Tanto rumore ha fatto prima questo incontro che avvenisse e naturalmente tanto rumore fa anche in queste ore, in questi giorni. Dunque, c'è stato un durissimo attacco del Quotidiano del Popolo, che è l'organo del Partito Comunista Cinese, che ha detto che Sarkozy pagherà un alto prezzo, quindi veramente parole minacciose, per aver incontrato il Dalai Lama. Poi ieri il vice ministro degli esteri He Yafei ha affermato che la Francia deve capire pienamente il danno che è stato fatto alle relazioni con la Cina, e quindi la stampa cinese va all'attacco. E tra l'altro proprio questa notte mi è arrivato un sms dalla Cina, da una fonte molto certa, che mi ha detto: attenzione che il boicottaggio ai prodotti francesi è già ripartito, quindi si pronuncia veramente una battaglia aperta, molto dura, tra Francia e Cina. D'altra parte Sarkozy ha risposto, ha cercato un attimo di placare gli animi, ha definito oggi il governo cinese come uno dei grandi del mondo e ha sottolineato di aver sempre pensato che esista una sola Cina, quindi insomma sta cercando un po' di spegnere l'incendio eventuale, insomma di non spargere ulteriore benzina sul fuoco. Però insomma Pechino continua a denunciare l'ingerenza negli affari cinesi fatta dalla Francia. Allora, come annunciato, tra pochi minuti torneremo in collegamento con gli Stati Uniti con Stefano Pistolini, che ci parlerà soprattutto della crisi dell'auto di Detroit, la patria dell'automobile americana. Ma parliamo di automobili anche sul versante cinese, perché novembre segna un calo consistente del 10,3% rispetto allo stesso mese dell'anno scorso sulla vendita di automobili, ed è il terzo mese su quattro degli ultimi quattro nei quali si registra una contrazione negli acquisti. Quindi un po' il vento di crisi sta spirando anche in direzione d'Oriente, in direzione della Cina. Complessivamente comunque il bilancio di questi primi 11 mesi del 2008 resta positivo, anche se non abbiamo gli exploit straordinari di quanto accaduto nel 2007. Tra gennaio e novembre infatti sono state vendute 6 milioni e poco più di automobili. Pensate che nel 2007 il totale era stato di 18 milioni e mezzo, quindi è difficile pensare che a dicembre si ricopra questa clamorosa distanza tra le vendite dell'anno scorso e le vendite del 2008. E intanto la Cina è ufficialmente il primo paese ad aver formalizzato la propria partecipazione all'Expo 2015 di Milano. L'abbiamo anche raccontato più volte qui a Jefferson Ming, esiste un gemellaggio molto stretto anche nella pratica, poi con viaggi continui da una sponda all'altra, dall'Oriente a Milano, tra l'Expo 2010 di Shanghai e quella milanese, che adesso ci appare lontana ma non è poi tanto lontana. Soltanto 7 anni per un avvenimento del genere non sono poi tantissimi. E proprio ieri c'è stata la firma tra il sindaco Comoratti e il vicepresidente del Consiglio cinese per il commercio estero, Wang Yizeng. C'era anche il presidente dell'Istituto Nazionale per il Commercio Estero Italiano, Umberto Vattani. Hanno siglato questo accordo, quindi insomma la Cina mette già le mani in senso positivo sull'Expo di Milano 2015. D'altra parte Milano avrà un suo padiglione all'Expo di Shanghai del 2010 e uno spazio di 7.000 metri quadrati nell'area delle Urban Best Practices, dove presenterà assieme ad altre città internazionali il proprio modello di sviluppo urbanistico. Prima di sentire ancora un po' di musica, brevissima notizia sul fronte americano, perché in queste ore si trova in Italia, proprio qui a Roma, David Petraeus, il generale protagonista del surge, dell'incremento di truppe in Iraq, che abbastanza bene, insomma, ha dato anche dei risultati nella strategia complicata, difficile degli Stati Uniti in Iraq. Petraeus si trova a Roma con il suo nuovo incarico, peraltro, di capo delle operazioni militari degli americani in Afghanistan, oltre che in Iraq, un po' in tutta la zona centro e medio orientale. Ha in agenda incontri importantissimi, da Berlusconi al ministro della difesa la Russa, mentre domani sarà ricevuto alla Farnesina dal ministro degli esteri Franco Frattini. Credo che in pratica chiederà nuove truppe o comunque una ricalibrazione delle truppe in Afghanistan più che in Iraq, e quindi staremo a vedere poi Petraeus che cosa chiederà di concreto al nostro governo. Bianca. Il passaggio di consegne. E dunque la nostra sigla su quella che è la transizione alla Casa Bianca più delicata, chiacchierata, raccontata sui giornali, sulle televisioni della storia, quella tra Bush e Obama, ci riporta d'incanto negli Stati Uniti dal nostro Stefano Pistolini. Ancora buongiorno Stefano. Eccoci. Allora, nella prima parte abbiamo fatto una sventagliata rapida su New York, sulla crisi, ma anche sui Knicks, quindi sull'NBA. Adesso ci spostiamo metaforicamente a Detroit, quella che rimane ancora, credo, la patria dell'automobile made in USA, e abbiamo letto molte cose anche sui giornali italiani, perché addirittura per sconfiggere la crisi che dilaga anche, forse soprattutto a Detroit, qualcuno ha deciso persino di portare delle automobili dentro una chiesa. Stefano, che ci puoi dire a riguardo? È stato il servizio prediletto, più visto, più amato e più ripetuto dalle televisioni americane. È stata una idea, devo dire, assolutamente geniale di questo vescovo pentecostale che si chiama Charles Ellis, di una enorme chiesa con 8.000 membri, una chiesa pentecostale di Detroit, la capitale dell'automobile. La chiesa si chiama Greater Grace Temple, il tempio della grazia più grande. E io mi sono visto l'intera questione praticamente in versione integrale, perché la messa in scena era eccezionale. Prima c'è stato questo coro, questo grande coro di un gruppo gospel che si chiama le Clark Sisters, con dei meravigliose tonache blu, che cantavano un pezzo molto ad hoc intitolato I'm Looking for a Miracle, sto aspettando un miracolo. E poi è entrato in scena il nostro vescovo Ellis III, e dei riflettori sapientemente pilotati sull'altare hanno rivelato che il reverendo Ellis si faceva largo tra tre meravigliose SUV, come li chiamiamo noi, insomma tre macchinoni delle grandi case locali. Per la precisione erano, aspetta, me lo sono scritto, dunque una Chevrolet Tahoe, una Ford Escape e una Chrysler Aspen, modelli, come spiegava il telecronista, contraddistinti dal fatto di essere tutti ibridi. Vedi l'espiazione. Ecco, non a caso, Stefano, so che il vescovo, tra l'altro ti posso confermare che su tutti i giornali italiani è la notizia d'apertura, c'è questa bella foto con il reverendo in mezzo alle auto. Il vescovo ha intitolato il suo sermone con un titolo straordinario: Speranza ibrida, una cosa pazzesca. Sì, perché questa è l'espiazione, no? In sostanza il vescovo ha picchiato durissimo, ha detto siamo al disastro, nel Michigan le cose non torneranno mai più come una volta, qui si perde il lavoro, is the darkest time, il tempo più oscuro, in the midnight hour, nell'ora, insomma, tutte nell'ora della notte, tutte i luoghi comuni forti, no, della retorica, del sermone, insomma, dei giorni che contano. Ha parlato di qualcosa che è riuscito a definire il God's bailout, cioè il prestito, l'intervento, come dire, tangibile di Dio. Ha detto che bisogna pregare tutto, ma in sostanza ha fatto capire che se non arrivavano i soldi erano dolori, e quindi quelli di Washington si dessero una mossa, perché la situazione era molto grave. È delle ultimissime ore, adesso qui è mattina presto, ma questa mattina tutta la faccenda dovrebbe andare in porto, notizia che comunque questo stanziamento, questa possibilità di nazionalizzazione, una parola che qua fa correre, insomma, i brividi sulla schiena, sia in atto. Il prestito è inferiore a quanto richiesto, si parla di 15 miliardi di dollari, ne avevano chiesti prima 50, però sono scesi a 25 General Motors e compagni. Dovrebbe servire a sopravvivere alle grandi case automobilistiche, ma per quanto tempo? Per poco, per alcuni mesi, tant'è vero che Nancy Pelosi ha detto guardate che dal mio punto di vista questo è solo l'inizio di una specie di falla nei portafogli degli americani che non si chiuderà mai. È stata molto pessimista nei suoi interventi. La notizia interessante è che tutto ciò andrà sotto il controllo di quello che qui già chiamano lo zar dell'impero automobilistico americano, un unico personaggio. Tra l'altro qui ci sono, in questo senso, sono circondato. Sentiamo delle sirene, non so se della polizia o dell'ambulanza, spero non siano per te. Sono tante macchine, spero non vengano a cercare me. Comunque, ecco, sono allontanate. E questo zar dell'industria automobilistica avrà poteri straordinari e avrà il compito di supervisionare naturalmente la ristrutturazione delle compagnie, ma con grande potere di intervento. Questa notizia è messa in connessione con un'altra notizia molto interessante e molto curiosa, ovvero che ieri Al Gore ha preso un aereo per Chicago, e come scherzano gli americani, Al Gore ha un obbligo nei confronti del suo popolo: non buttare via benzina. E lui di benzina per andare fino a Chicago ne ha buttata tanta, quindi avrà avuto un buon motivo per farlo. E quale può essere il motivo, se in queste ore si sta pensando, Obama e soci pensano soltanto a salvare l'industria automobilistica e alle questioni tutte circostanti, che naturalmente poi sono quelle della energia, per cui questo nome di Al Gore improvvisamente è diventato, come dire, importante. Pensate un po', Al Gore messo a fare da supervisore, in un certo senso, a un'altra forma di espiazione, no? L'espiazione del ridicolo impero automobilistico americano, pieno di peccati, no? Pieno di aerei privati, pieno di paracadute d'oro per i manager, con il compito di portare il suo messaggio, che è quello naturalmente delle energie alternative, di un ambientalismo rispettoso e attivo e quant'altro, dentro quello che sarebbe poi, no, il covo del nemico, cioè Detroit e le case automobilistiche. È uno scenario molto molto interessante, come è interessante comunque poi questo decalogo che il governo sta preparando per le case automobilistiche, insomma gliela fanno pagare, i prezzi a pagare sono tanti, dovranno fare ricerca su tutte le forme di trasporto, compreso la ferrovia, dovranno darsi stipendi più bassi. C'è questa questione reale che comunque il governo in garanzia avrà delle azioni della General Motors, della Ford e quant'altro, insomma vedremo che quanto varranno tra qualche anno. Ci sono gli interessi per 7 anni, gli interessi saranno il 5% per i primi 5 anni e 9 per gli ultimi 2 anni, sempre che qualcuno abbia qualcosa da restituire. Quindi mi sembra di capire, insomma, che dietro questa iniziativa massiccia, anche se non massiccia come si pensava fino a poche settimane fa sull'auto, c'è sempre dietro la regia di Obama. A tuo giudizio, fosse dipeso da Bush, cosa avrebbe fatto con le auto lui? Non è una domanda retorica, però insomma, tanto per raccontarci qualcosa su quello che poteva essere. No, No, ma io credo che Bush, di cui poi magari domani approfondiremo la figura in questi giorni, perché a suo modo è titanica, insomma, l'uscita di scena è titanica. Credo che Bush in tutta questa storia abbia delle responsabilità passive, insomma, tutto quello che sta succedendo era perfettamente chiaro, era inutile farsi vedere orgogliosamente alla guida di un Ford F-150 quando poi, insomma, questi rapporti erano sul suo tavolo da parecchi mesi. Io credo che lì le responsabilità siano molto chiare, e credo che tutta questa operazione, comunque, ripeto, sia un'operazione pilota poi, insomma, di un procedimento nazionale ormai che si è ormai avviato. Pensate un'altra notizia di oggi. Gran parte dei neogovernatori eletti o dei governatori confermati hanno deciso di cancellare le tradizionali feste di Stato per l'avvio del nuovo periodo di governo. Non ci saranno più i balli, di solito si tratta di grandi, fastosi, costosissimi balli. Hanno quasi tutti cancellato questo evento, dicono c'è gente che in questo momento sta lottando per salvare il lavoro e la casa, non si tratta di fare balli, si tratta di darsi da fare. L'unico l'evento con la E maiuscola, proprio quello, è naturalmente il 20 gennaio quando avverrà l'inaugurazione, magari su questo poi diremo qualcosa in più nei prossimi giorni, ma per il resto è tutto cancellato. Un'altra notizia che vi volevo sottolineare prima di chiudere, molto interessante per spiegare come ormai la festa per Obama è passata e il lavoro incombe. Lo stesso Obama che incontra Gore sulle questioni probabilmente dell'ambiente deve mettere le mani in una storia complicata e spinosa, ovvero il rinnovamento e probabilmente il rafforzamento dell'arsenale nucleare americano. Pensate un po', insomma, Obama ha fatto una campagna dicendo che voleva trovare il modo di creare un mondo senza armi nucleari, sì, che erano un deterrente importante, l'America ce le doveva avere, ma insomma doveva rafforzare il programma di non proliferazione delle armi nucleari. Ebbene, una delle prime questioni che Obama si troverà sul tavolo riguarderà proprio questo arsenale, che tra l'altro ha sede accentrato in Tennessee, in un posto che si chiama Oak Ridge. Ci sono tutta una serie di questioni di rinnovamento, di rinfresco, diciamo così, di questo arsenale, in un certo senso una specie di scherzo del destino. Obama si siederà alla sua scrivania, una delle prime cartelline che dovrà aprire sarà quella che porta sopra la scritta proprio nucleare. E quindi, insomma, si attendono tempi duri, tempi di gran lavoro per Obama. Una sola curiosità finale: Al Gore alla fine non lo fa ministro dell'ambiente, no? Beh, guarda, come ti dicevo, Al Gore era rimasto, come dire, in un limbo, no, abbastanza a lungo in questo ormai consolidato avvio di transizione, e non si capiva bene se era destinato a stare alla finestra e a diventare un po' il grillo parlante magari di questa nuova amministrazione. Il contatto c'è stato, Al Gore è andato a Chicago, c'è andato anche in modo molto visivo, molto visuale, cioè l'hanno visto tutti, si è fatto firmare, ha fatto grandi sorrisi, ha fatto la faccia circostanza. Di sicuro non fa un'operazione di questo genere per poi dire sono andato a prendere il caffè con Obama e per dargli qualche consiglio sul cane da comprare, insomma. C'è stata sicuramente un'offerta. Le questioni che abbiamo appena elencato, ovvero rinnovo, rafforzamento dell'arsenale nucleare e enorme, gigantesca questione dell'automobile, con tutte le relative questioni delle energie alternative, sono là, secondo me, da queste parti dovremmo mettere lo spillo con sopra il nome di Al Gore. Allora, staremo a vedere, grazie a Stefano Pistolini, che domani ritroveremo in collegamento, certo, diretto con gli Stati Uniti. Abbiamo sfiorato in questi ultimi minuti l'argomento clima, noi ci torniamo più pesantemente con i piedi dentro il piatto tra pochi minuti dopo il traffico. Ace of hearts, I lost everything. I'm a l'ultima parte di Jefferson Ming, prima della pausa, prima del traffico, con Stefano Pistorino abbiamo toccato, abbiamo sfiorato l'argomento ambiente, l'argomento clima, con le prossime mosse di Obama e con l'incontro anche a Chicago con Al Gore. Restiamo sul tema perché in questi giorni, ormai da una settimana poco più, è in corso a Poznan in Polonia un'importante conferenza dell'ONU sul clima, e abbiamo in collegamento proprio dalla Polonia l'inviato del Sole 24 Ore, Marco Magrini. Buongiorno Marco. Buon pomeriggio. Allora Marco, tu sai che noi come programma siamo focalizzati soprattutto su Cina e Stati Uniti, che anche nella partita ambientale naturalmente giocano un ruolo determinante. Io ti vorrei chiedere prima di tutto il ruolo che stanno giocando proprio gli Stati Uniti, tenendo conto che tu in un articolo sul Sole 24 Ore di qualche giorno fa hai accennato alla presenza del convitato di pietra Barack Obama, che non è ancora presidente americano a tutti gli effetti, per ora è soltanto tra virgolette eletto, quindi in qualche modo gli Stati Uniti sono presenti con una delegazione ancora legata alla vecchia amministrazione Bush, e Obama può fare davvero poco, o chi per lui. Come stanno le cose? Beh, è esattamente così, esattamente come nelle previsioni. Paola Dobrianski, che è il capo della delegazione americana, un vice ministro dell'amministrazione Bush. Come sempre l'amministrazione Bush è stata su posizioni piuttosto oltranziste sul tema del controllo delle emissioni serra, e questa posizione non è ovviamente sostanzialmente cambiata. Il presidente eletto Barack Obama, durante la campagna elettorale e anche dopo la vittoria elettorale, ha ripetuto più volte della disponibilità della sua amministrazione a assumersi degli oneri di riduzione dei gas serra, però evidentemente l'amministrazione Obama non è in carica, e quindi questo provoca un generale stallo di tutte le trattative e dei negoziati che sono in corso qui a Poznan. Quindi difficilmente anche l'imminente arrivo di John Kerry in rappresentanza del Senato, ma credo anche in rappresentanza di Obama, potrà cambiare un po' lo stato dell'arte. Ah, ovviamente no, perché appunto Obama è sempre stato chiaro, negli Stati Uniti c'è un presidente in carica alla volta, questo non è, il suo momento non è ancora arrivato, e quindi come dire, ovviamente non può imprimere una accelerazione o un cambiamento a questo negoziato, che molto francamente sta andando più a rilento del previsto. Addirittura ci sono dei diplomatici che stanno dicendo che la trattativa va talmente a rilento che questo potrebbe compromettere il vero obiettivo di questo vertice, che è quello di arrivare fra un anno al vertice di Copenaghen uniti e risoluti a prendere delle decisioni, che poi si tratta sostanzialmente di dare un futuro al protocollo di Kyoto, che morirà naturalmente nel 2012, e c'è da istituire un nuovo sistema internazionale per il controllo delle emissioni serra, che prenderà il suo posto dal 2012 in poi. E devo dire che, come è sempre stato in questi anni, l'assenza, la mancanza di determinazione da parte degli Stati Uniti, che resta il principale produttore di CO2 al mondo, provocano inevitabilmente uno stallo di tutti i negoziati. Marco, ma da quanto ti risulta, magari non in via ufficiale, ma dietro le quinte, l'amministrazione Obama si sta muovendo in questo senso, sta già facendo qualcosa di concreto? Dunque, o è presto per dirlo? È ancora presto per dirlo, ci sono un sacco di dichiarazioni di buona disponibilità, di disponibilità. Il problema qual è? È che Obama non vuole ripetere l'errore che fece Clinton nel 97, quando fu firmato il protocollo di Kyoto. Sostanzialmente l'amministrazione Clinton lanciò il cuore oltre l'ostacolo, firmò il protocollo, ma poi il Senato americano non l'ha mai approvato, quindi Obama non vuole ripetere questo errore, e presumibilmente dovrà portare una legge sui cambiamenti climatici, sul controllo delle emissioni serra, al Congresso americano l'anno prossimo. Sappiamo che poi sarà un anno molto complicato, il primo anno di Obama, prima di arrivare a Copenaghen, e questo secondo gli osservatori, alcune persone che ho parlato anch'io, con le quali ho parlato nell'ambito della delegazione americana, escludono o quantomeno dubitano che una legislazione del genere possa essere varata negli Stati Uniti prima del dicembre dell'anno prossimo. La Cina come si è presentata in Polonia? Sta sfruttando lo stallo americano per non fare niente a sua volta, oppure ha presentato delle iniziative interessanti? Ma io direi che è esattamente il contrario, nel senso che i cinesi già dall'anno scorso al vertice di Bali hanno sostanzialmente cambiato atteggiamento. Il governo di Pechino ha messo in piedi negli ultimi anni, devo dire negli ultimi due anni, un sacco di iniziative per il risparmio energetico, per lo sviluppo di nuove energie. Parlo di energie rinnovabili ovviamente. Si parla di 180 miliardi di dollari che la Cina metterà sul piatto delle energie rinnovabili da qui al 2020, e ieri ho parlato brevemente con Su Wei, che è il direttore dell'Istituto Nazionale delle Risorse Naturali di Pechino, il quale sostiene appunto che la Cina ha già realizzato ha già fatto dei passi legislativi importanti, per esempio imponendo alle aziende che usano più energia di raggiungere degli standard energetici, dicendo esplicitamente che coloro che non riescono a raggiungere questi standard verranno incoraggiati a uscire dal mercato. Quindi in sostanza il governo cinese sembra voler dimostrare l'intenzione di voler aprire una nuova strada, insomma, cioè, perché riconoscono apertamente che i cambiamenti climatici ci sono, un problema con le emissioni serra è chiaro e lampante, e quindi bisogna fare qualcosa. Marco, ti lascio l'ultima battuta sull'Italia, perché mentre è in corso la conferenza dell'ONU sul clima in Polonia, a Poznan, il nostro governo, il nostro esecutivo è impegnato anche a Bruxelles, dove stanno andando avanti, seppur faticosamente, le trattative per il negoziato dell'Unione Europea sul pacchetto clima-energia. Insomma, come si sta comportando, che cosa sta raccogliendo il nostro paese da Poznan e da quello che sai anche da Bruxelles? Ma ovviamente la posizione italiana a Poznan sin qui è stata abbastanza defilata, ma è abbastanza comprensibile perché, come giustamente dicevi te, tutto è concentrato sul vertice europeo di giovedì e venerdì, che sotto la presidenza francese sta disperatamente tentando di arrivare a un accordo sul pacchetto clima. E questo inevitabilmente finisce per influenzare il corso delle trattative qua, perché l'Unione Europea, che fino a oggi si era presentata un po' come l'apripista nel campo, insomma, in questo difficile mondo delle riduzioni delle emissioni che vengono dai combustibili fossili, attualmente è spaccata, e quindi diciamo, questo è un ulteriore fattore che ci porta a dire che questo vertice non necessariamente fallirà, ma renderà più difficile il percorso al vero obiettivo, che è quello del vertice di Copenaghen dell'anno prossimo. Ringrazio naturalmente Marco Magrini, inviato del Sole 24 Ore a Poznan in Polonia, dove sta seguendo la conferenza dell'ONU sul clima. Non mi resta che ringraziare Gloria Guerrera in redazione, Valerio Rocchetti in regia, Jefferson Ming at radio24.it. Questa sera alle 21 la replica. Noi torniamo in diretta domani alle 16 con Stefano Pistolini in collegamento dagli Stati Uniti.